Grazie innanzitutto di essere venuti così numerosi, siamo molto contenti di aver organizzato questa serata. Chiamerei prima di tutto qui Samira e Tiziano e Michelangelo Frammartino, di cui presenteremo poi il lavoro. Ok, allora, prima di iniziare una nota velocissima ma doverosa, il nostro collettivo esprime solidarietà allo sciopero di Alfredo Cospito, in sciopero della fame di cui domani ci sarà la sentenza di Cassazione. Vorremmo dedicare questa serata ragionando brevemente sull'idea di cinema indipendente, cioè di produzione e di distribuzione indipendente. Per questo appunto abbiamo chiamato Michelangelo Frammartino, regista milanese di cui probabilmente già molti di voi conosceranno il lavoro, e Samira Guadagnolo e Tiziano Doria, che sono qui dietro, di Warshad Film, artisti particolarmente legati alla dimensione analogica della produzione filmica e la cui ricerca sia artistica e poetica che di modalità e strategie produttive e distributive ci sembrava particolarmente interessante. Volevo appunto dire due parole, senza prendere troppo tempo, sui motivi che ci hanno spinto a organizzare questa serata. Innanzitutto volevamo provare a ragionare sul concetto di cinema indipendente. È un concetto che ancora, cioè oggi è particolarmente usato, talvolta anche abusato, e fino al punto che bisognerebbe chiedersi se ha ancora senso utilizzarlo. Diciamo che se guardiamo al discorso produttivo, che forse, quindi economico, che appunto forse è stato il concetto da cui è nato poi questa idea di cinema indipendente, oggi ci sono dei film, delle produzioni indipendenti che costano, che hanno dei budget anche superiori a dei film dei major. Se invece guardiamo un po' al discorso di cinema indipendente inteso come libertà dell'autore, credo che lì appunto dipenda un po' molto dalle varie situazioni, quindi ci sono dei contesti in cui magari le case di produzione impongono un controllo più serrato o meno pressante su questo cinema indipendente, ecco. E quindi che cosa vuol dire fare del cinema indipendente essenzialmente? Spesso si parla di cinema indipendente come un cinema legato al mondo dei festival, ovvero di opere che hanno la loro nascita, il loro percorso e anche la loro morte, purtroppo, all'interno e soltanto all'interno del circuito dei festival. E quindi verrebbe da chiedersi se questo concetto di indipendente, se questo aggettivo sia quello giusto per descrivere questo tipo di cinema che di fatto dipende, nella maggior parte dei casi, da questo circuito. Quello di cui però si parla spesso, e che appunto magari volevamo anche brevemente, perché poi è un tema larghissimo, provare ad accennare stasera, è anche quello di distribuzione indipendente. Anche perché sempre più nel cinema viene da pensare il momento della produzione e della distribuzione come due momenti di fatto separati, che è un'idea che forse non si adatta molto all'idea di cinema per come è nato, ecco. Poi magari Samira e Tiziano ne parleranno, però l'idea di cinema in pellicola è una struttura che anche soltanto per essere messa in atto, per essere predisposta, per vederla, necessita di una, appunto, di una sua infrastruttura, a meno che non si voglia fisicamente provare a guardare dentro la pellicola. Quindi è un'arte, quella cinematografica, che non è mai stata immediata, almeno come potrebbe essere magari una scultura, come potrebbe essere una pittura, ma che è mediata di fatto dalla tecnica. Quello che penso è che se oggi la tecnica di fatto è magari più, o sembra essere più accessibile, fare in modo che le persone abbiano un'esperienza collettiva e partecipata come quella che poi avremo questa sera di visione sembra una cosa che diventa sempre più complessa. Faccio questa precisazione, quella dell'esperienza collettiva, perché è una dimensione che almeno io personalmente ritengo imprescindibile per un'idea di cinema. In questo senso, appunto, ci interessa molto il lavoro di Tiziano e di Samira. L'idea che l'artista, regista o insomma cineasta porti fisicamente anche in giro il suo lavoro, la sua opera, apre evidentemente alle numerose derive e probabilmente agli altrettanti altri approdi che questa arte può avere. E che ha inevitabilmente, che dovrà scoprire dopo la perdita di centralità della sala cinematografica appunto negli ultimi 20 anni abbiamo visto. Antonio, scusate, mi sono dilungato, forse se vuoi dire due parole sul nostro gruppo che ha organizzato questa serata, il gruppo Maelstrom. Sì, ciao a tutti, ringrazio anch'io tutti per la numerosa partecipazione, ringrazio compagni e le compagne del Conchetta che ci hanno dato la possibilità di organizzare questa serata in questo spazio. E niente, vi racconto brevemente la nostra esperienza. Questo è un collettivo nato un paio d'anni fa, formato da cineasti a cavallo tra questa zona, diciamo la zona di Milano e la Svizzera italiana, e che hanno deciso di mettersi insieme, diciamo, mossi da due grandi preoccupazioni. La prima che ci ha colpito di più è quella relativa all'impatto che il mezzo audiovisivo oggi, per quello che rappresenta, è in grado di produrre sulla vita delle persone che lo subiscono, usiamo questo termine. E quindi il potere che spesso questo mezzo è in grado di esercitare proprio attraverso, noi ci siamo concentrati proprio nell'analisi anche sulle forme, quindi linguaggi che non lasciano a chi guarda la possibilità di riflettere, controbattere, criticare, ragionare su quello che stanno vedendo, e quindi che prestano il fianco anche alla veicolazione, diciamo al veicolare attraverso forme che non rispettano lo spettatore, anche contenuti di un certo tipo, pensiamo alla guerra o insomma quando poi l'audiovisivo può diventare addirittura uno strumento propagandistico. Intorno a questo, diciamo che l'elemento che emerge spesso è l'assenza quasi totale di dibattiti, di discussioni tra lavoratori di questo ambito su queste problematiche. E questo, diciamo, è un settore, quindi questo tipo di forme può riguardare, diciamo, la maggior parte del cosiddetto mondo mainstream. Al fianco di questo mondo mainstream, noi, come già un po' accennato Pietro, c'è tutto l'ambito festivaliero, potremmo definirlo, che per quello che abbiamo potuto riflettere noi rappresenta una sorta di nicchia parallela che spesso frequentata da quasi esclusivamente da addetti ai lavori, e che però non osa, diciamo, mettersi contro, tra virgolette, né il cosiddetto mainstream né le problematiche, il mondo in cui siamo immersi. E quindi rimane il problema di milioni di persone nei vari territori a cui che non hanno accesso a determinati contenuti, e quindi noi come collettivo di cineasti, questo è un problema che ci siamo spesso posti. E quindi la serata di questa sera va anche in questa direzione, ossia cercare di capire se e come poter dare modo a tante persone di poter avere accesso a determinati contenuti. Il secondo, la seconda macro preoccupazione che ci attanaglia è un po' quella di, in qualità di cineasti, quella di come poter sopravvivere o vivere o semplicemente anche realizzare i nostri lavori in questo ambito, e spesso trovandoci davanti a quella che è un'industria come quella audiovisiva, che uno se la trova davanti e appena, magari a maggior ragione uno che è appena uscito da una scuola di cinema, e sembra una specie di colosso insormontabile, in cui spesso alle condizioni di atomizzazione in cui oggi siamo tutti più o meno costretti a vivere, ci si ritrova da soli e ci si sente impotenti. E quindi davanti a questa condizione le opzioni sono due. La prima è quella, diciamo, di provare a sfangarsela da soli, che è l'opzione più immediata, ossia quella di cercare di guadagnarsi il proprio spazio, e però questo genera una serie di problematiche, dal mettersi l'uno in competizione con l'altro, cercare di accaparrarsi le varie cose, insomma. E poi, a fronte di uno che tra virgolette ce la fa, quanti altri rimangono? E noi invece, che come in questo collettivo, poiché molti di noi vengono anche da esperienze di lotte politiche, abbiamo deciso di utilizzare questo bagaglio di esperienze per dire no, non sono problemi individuali, ma sono problemi che riguardano tante persone, quindi collettivamente dobbiamo provare ad affrontarli. Quindi questo collettivo è un progetto aperto. Se in questa sala, e noi speriamo di sì, ci sono persone che come noi condividono questo tipo di problematica e che vogliono provare a sentirsi meno soli e cercare di capire insieme come poterne venire fuori, ebbene, possiamo prendere contatti, dopo avremo modo di fare due chiacchiere, insomma. L'auspicio è quello di creare qualcosa di aperto e in dialogo, e niente, tutto qui, penso di aver detto abbastanza. Lascio la parola. Ok, beh, allora, come accennavo prima, abbiamo invitato Samir e Tiziano perché ci piacerebbe discutere con loro e con voi del loro, più che del loro cinema, del loro modo di fare cinema, o quantomeno del loro modo di portare in giro il loro cinema. Cinema, vorrei dire, atipico, però forse una volta si faceva solo così. Oddio. Cioè, l'idea appunto anche di un autore che porta fisicamente in giro la sua opera. Niente, quindi, non lo so. Se appunto avete un'opinione su questo. Vabbè, buonasera a tutti, grazie dell'invito, Pietro. Lars, aspetta, invertiamo. No, figurati. Sì, noi diciamo abbiamo cercato di rispondere a noi stessi rispetto alle domande che vi siete fatti voi, e la nostra risposta è stata, beh, ce la sfanghiamo un po' da soli, nel senso che ci siamo messi a fare le nostre cose come volevamo farle, e cioè... Si sente. E cioè questo, noi abbiamo messo in piedi un laboratorio dove facciamo tutto da soli, sostanzialmente siamo in due, i nostri film ce li facciamo da soli, li giriamo, li sviluppiamo, li stampiamo, li montiamo e poi li distribuiamo anche da soli. E può sembrare un po' una follia, ma diciamo, con questa nostra esperienza, che ha a che fare con una pratica, con una tecnica anche molto ingombrante, perché lavoriamo con la pellicola, quindi magari poi se abbiamo tempo vi diremo il perché noi abbiamo scelto di lavorare in pellicola, abbiamo, diciamo, tutta una nostra visione rispetto a questa cosa, ma nella pratica di questo, il fatto di affrontare e di diciamo, gestire delle macchine di questo tipo da soli comporta un certo approccio anche al lavoro, per cui lo strumento che noi usiamo non è separato poi dal tipo di lavoro che facciamo e da come approcciamo il nostro racconto, quello che vogliamo raccontare. E quindi, per esempio, ritornando al discorso della, diciamo, del collettivo, del fatto di condividere queste pratiche, ecco, noi anche nel momento in cui giriamo i lavori cerchiamo di entrare in relazione con l'ambiente che stiamo osservando, e il lavoro è un lavoro lungo che non potrebbe seguire un approccio tradizionale produttivo. Spendiamo molto tempo nei luoghi che poi giriamo, osserviamo, e noi abbiamo trovato che questo metodo a noi funziona. E quindi non sappiamo se poi dove potrà andare a finire, fin dove ci potrà condurre essere così testardi nel portare avanti questa idea, però per il momento ci stiamo provando ed è così. Quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa. Va bene, ok. Ma sì, io credo che la roba che ci interessava, poi appunto abbiamo detto anche in maniera un po' spiccia, forse non si può tornare su dopo, insomma, la cosa appunto che ci interessava di più era il modo in cui voi li portate in giro, i vostri film, cioè essenzialmente la maniera in cui, al di là appunto di quello che è la vostra poetica, il vostro rapporto con i luoghi appunto che filmate, anche poi in che modo la proiezione, cioè che tipo di concetto c'è, cioè che tipo di discorso c'è intorno alla distribuzione, cioè voi fisicamente portate in giro i vostri film. Questo che poi può essere una cosa... Vai, Tiziano. No, parla tu adesso. Sì, sì, sì. E infatti, vai in Lars. Ci invertiamo, dai. Vabbè, scusa, dimmi, dicevi. No, scusa, era proprio quello che stavo... Cioè, che stavo dicendo. Poi, insomma, se volete raccontarci un po' sulle vostre pratiche, sulla vostra, insomma, metodologia, sulla vostra... su come distribuite poi di fatto i vostri film. Ma distribuire, insomma, è una parola un po' grossa, però sì, distribuiamo, li portiamo in giro, siccome realizziamo i nostri film, li stampiamo, quindi in qualche modo abbiamo una copia e la portiamo in giro fisicamente con il nostro proiettore, e quando ci invitano a presentare i nostri lavori ci portiamo addirittura il proiettore. E tante volte non proiettiamo nemmeno un film, ma dei pezzi che elaboriamo durante le prove, le stampe, così. E quindi questa cosa ci permette anche di non avere esattamente il nostro film monocanale, ma spesso sommiamo degli esperimenti, dei test, che ci permettono appunto di dialogare anche con altre realtà, come dei musicisti, o combinare varie... soluzioni, ecco, diciamo così. Quindi non so se si può parlare di distribuzione, insomma è una specie di così di divulgazione un po'. Sì, poi è anche vero, per amore di onestà, che comunque non è solo questo l'unico canale di distribuzione che abbiamo, perché poi anche noi abbiamo partecipato con dei film più classici a dei festival, e in quel caso abbiamo dovuto mandarli e avremmo voluto proiettarli in pellicola, ma spesso i festival non hanno questa possibilità e quindi rifiutano questo, per cui in qualche modo anche noi ci siamo ibridati per quello che... perché non è l'unica modalità, è quella di portare, però sarebbe molto bello che potesse diventarlo, che potesse essere l'unica, o che potesse, diciamo, aumentare questa possibilità. Beh, comunque appunto la parte, cioè questa idea di una della possibilità, io credo anche soltanto la possibilità di costruire dei canali alternativi rispetto a quelli che sono la distribuzione ordinaria, quindi passaggio all'interno delle sale oppure su internet, come si diceva prima, in realtà apre un po' a delle possibilità altre, che sono quelle della fruizione insieme di un'opera, e che quindi fa anche immaginare come il ritrovare una dimensione collettiva della visione, perché di questo si parla nel momento in cui si proietta un film in pellicola, possa anche uscire o comunque ibridarsi con altri sistemi più classici o perlomeno più forzati da questo punto di vista. Per passare dalla distribuzione in realtà alla produzione, non so se tu, Michelangelo, volevi fare due parole su quello che era stato il percorso invece produttivo di quello che è il tuo primo, comunque un film che di fatto possiamo chiamare cinema indipendente, per quanto apra appunto a una discussione sul senso di questo termine, un film relativamente fatto con poco, che però in realtà poi insomma è andato molto, ecco. Allora, sono passati un po' di anni dal dono, perché sono passati 20 anni, quindi devo fare un po' di lavoro per mettere insieme la vicenda. È un film produttivamente indipendente, direi, nel senso che era fatto con piccolissime risorse. Mi ricordo che un pezzo importante era un premio che avevamo vinto a Bellaria, che è un festival che adesso sta rinascendo, però è un festival importante per il territorio indipendente. Quindi una parte del budget, che era piccolissimo, mi sembra che fosse il budget per girare, che eravamo riusciti a mettere insieme, fosse tra i 5 e i 6 mila euro. E parlo del 2002-2003. L'attrezzatura veniva dalla scuola di cinema, dalla Civica, quella che adesso è la Luchino Visconti, e che aveva una politica, che mi sembra abbia ancora, di sostegno agli ex studenti. Quindi ero riuscito ad avere la macchina da presa e alcuni strumenti, insomma. Era in pellicola, sì, era in 16 mm. Eravamo riusciti a prendere un po' di scatole scadute dalla Kodak, no? Quindi a pagarle veramente poco. E poi eravamo riusciti, il film è stato girato, mi sembra, in 12 giorni, quindi in un tempo piuttosto ristretto. Questo è un altro punto, ovviamente. Era un film, non aveva una scrittura vera e propria, aveva una specie di storyboard, un po' di scarabocchi, diciamo. E il fatto, per esempio, ne hai accennato a questa cosa, il fatto di non utilizzare la sceneggiatura classica ovviamente costituisce un problema nella produzione, no? Perché la produzione ovviamente classica prevede che si consegni una sceneggiatura a una commissione. Se non è quello la tua modalità di lavoro, può diventare una strada non percorribile. Quindi girato sulla base di questi scarabocchi in 12 giorni, rubando molto al territorio, anche in quel caso, un territorio che per me è molto importante, che è la Calabria Ionica. E poi montato, perché poi esiste anche questo, no? Il problema della post-produzione. Fu telecinemato alla Blue Gold, che non so se esiste ancora, non esiste più. La Blue Gold era un'azienda che lavorava soprattutto per la pubblicità milanese, e uno dei soci era Zuccotti, che era molto disponibile nei confronti del cinema indipendente. E mi ricordo che mi avevano dato, avevano chiamato un operatore del telecinema in pensione, che aveva una gran voglia di tornare a mettere le mani sulle macchine, e gli avevano dato un telecinema rotto in uno scantinato della Blue Gold. E mi sembra infatti che avevamo dei problemi sui Verdi, se non ricordo male. E quindi telecinemammo con questo tecnico molto simpatico nel sottoscala della Blue Gold, sostanzialmente. Poi io montai a casa in digitale col Media 100, che era un sistema che nessuno ricorda più, forse Bruno a me avevano detto che il Mediacento si avrebbe mangiato l'Avid, che l'Avid era spacciato, e comprai un Mediacento ed ero l'unico in Italia ad avere il Mediacento. E lo montai il Mediacento e poi iniziai la trafila perché il lavoro fosse finalizzato in pellicola. E lì c'era il problema ovviamente finanziario, perché fino a girare in pellicola con tutta una serie di escamotage, telecinemare con quest'altro escamotage del tecnico in pensione, ma poi stampare era un problema, lì servivano delle risorse. E intervenne un distributore indipendente, che è Lab 80, che poi ha distribuito il film nei circuiti indipendenti italiani, diede un contributo importante, lo comprò i diritti antenna Rai Cinema per una cifra da fame, però con queste due componenti riuscimmo a fare la stampa. E poi, realizzata la stampa, iniziò il percorso festivaliero, cioè fu presentato a Locarno, e quella è una strada possibile. È chiaro che se un film ha un po' di fortuna e va in un paio di festival importanti, poi gli altri festival ti invitano, no? Lo sapete bene. E il Dono, per esempio, andò in circa 200 festival, per cui in qualche modo si guadagnò un pubblico attraverso questa strada. E poi ebbe in una proiezione del cinema italiano a Parigi, al Latinà, il cinema che proietta questo tipo di film, lo prese un distributore francese, per cui ebbe una distribuzione in Francia, e poi in qualche paese francofono, per cui a un certo punto è una sua proiezione, distribuzione ufficiale, oltre a quella indipendente in Italia con la Bottanta. Grazie. Allora, diciamo così, se ci sono domande prima della proiezione, le possiamo raccogliere adesso, altrimenti vediamo il film e ci riflettiamo, e poi se ci sono insomma questioni ritorniamo qua e ne possiamo parlare. Sì, direi che alla fine del film possiamo fare una specie di microfono aperto, per cui chi vuole intervenire, creiamo una discussione aperta. Sì, va bene. Ci sono qualcuno vuole chiedere, dire qualcosa prima che vediamo il film di Michelangelo? Posso dire io? Devi. Siate molto generosi, eh? Era girato in 12 giorni con una macchina da presa che quando andava fuori asse si fermava, ok? E quindi con qualche problema. Io sono affezionatissimo davvero tanto a questo film, perché il protagonista è mio nonno e lo riconoscete dalle orecchie. Niente, io ci tenevo a ringraziare innanzitutto il Cox per averci ospitato per questo evento. Siamo contentissimi che siete riusciti a venire così numerosi. Per tutte le persone che sono riuscite a venire le ringrazio, perché comunque è il nostro primo evento importante, diciamo, e quindi grazie veramente per essere qui. E soprattutto volevo ringraziare Michelangelo, Tiziano e Samira, perché oltre ad essere dei cineasti che in qualche modo, parlo per me ma parlo anche per gli altri membri del gruppo Maelstrom, sono cineasti che in qualche modo col loro lavoro ci hanno ispirato, sono anche persone che hanno avuto un ruolo importante di tipo didattico in qualche modo, e che hanno permesso a noi, ma credo ad altri membri un po' della nostra generazione, di leggere le immagini in un certo modo, di poter leggere le immagini in un certo modo, di poter in qualche modo anche però, oltre all'essere rigorosi nel lavoro, insomma, essere anche in qualche modo degli osservatori attenti o di andare un po' anche al di là. Questo non riguarda solo il discorso cinema, il discorso lavoro nel cinema, ma riguarda anche, secondo me, forse qualcosa di un po' più di filosofico, un approccio un po' anche a guardare le cose in modo diverso. Io proprio per questo volevo innanzitutto chiedere se qualcuno ha un'esigenza o qualcuno vuole fare una domanda rispetto al film, al dono in questo momento, è libero di farlo. Se no, volevo chiamare di nuovo Michelangelo e Samir e Tiziano qui per giusto gli ultimi minuti. E io volevo porvi una domanda a tutti e tre, perché so che in qualche modo voi avete non solo un rapporto con la sala, ma avete anche un rapporto con... Io tra poco vi lascio il posto... No. Non avete solo un rapporto con una sala, ma avete anche un rapporto con spazi che non sono propriamente sale cinematografiche o sale di proiezione. Insomma, il vostro rapporto col cinema installativo, con in qualche modo con l'evento, per me la stessa proiezione di questa sera è una cosa un po' fuori dal comune, perché non siamo in un cinema, siamo in uno spazio. Insomma, questo collegamento fra il luogo in cui magari decidete di portare, al di là dell'istituzione, del luogo in cui decidete di portare un vostro lavoro, il modo in cui, attraverso anche la vostra stessa presenza fisica, voi portate un lavoro, cercate di mostrarlo, e la risposta che in qualche modo un pubblico può avere rispetto a questo lavoro mostrato in questo modo, può essere in qualche modo oggi una risposta, se vogliamo, a quella che, parlandoci un po' sinceramente e onestamente, è la fruizione, diciamo, normale, quella che è diventata comune dei lavori audiovisivi, che è sostanzialmente quella legata alla connessione internet e alle piattaforme. Se posso, vorrei aggiungere anche una domanda molto semplice. No, complimenti primo per come raccontavi tu con la tua camera un po', cioè per le immagini, no? Io sono calabrese, quindi quei territori li ho attraversati, complimenti. Però cioè la domanda mia è questa, molto semplice: il titolo, il dono. Il perché il dono, no? Sto finito. Grazie. Ok, vado io. Allora, adesso cerco di ricordarmi perché l'avevo intitolato il dono. Adesso ci penso. No, è la... il dono è la Vespa, insomma, no? È questo oggetto che regala il vecchio alla ragazza per svincolarla da pressioni che riceve dal paese, insomma. Poi aveva a che fare anche un po' con la forma del film, però penso che questa sia la risposta più rapida, insomma. E rispetto alla questione degli spazi, allora... un film si compie ovviamente quando viene proiettato, no? Lo immagini, lo costruisci, lo monti, però non si compie finché qualcuno non fa il lavoro di interpretazione, no? E specialmente se il film che hai fatto è aperto, no? E quindi ha bisogno di questo lavoro che fa chi viene a vederlo. Non può essere chiuso nel momento che tu l'hai chiuso alla color o nella sala di montaggio. Quindi avere il privilegio di incontrare il pubblico significa poter assistere al momento in cui il film si compie e che si trasforma anche, perché accade qualcosa anche di imprevisto. Il film, per esempio, questo piccolissimo film che avete visto, nella mia mente è cambiato tanto negli incontri con il pubblico. Cioè c'erano delle cose che io avevo immaginato e costruito, e poi negli incontri davvero in molti luoghi diversi le domande, le interpretazioni delle persone lo hanno veramente profondamente cambiato nella mia mente. Per cui io molto spesso alle domande ora rispondo con delle cose che mi ha detto il pubblico negli anni. E quindi avere questa possibilità è preziosissima, insomma. E questo è molto egoistico anche, no? Cioè è preziosa per me, perché capisco il lavoro che ho fatto assieme a chi lo guarda. E ovviamente la fruizione nelle piattaforme non permette questo tipo di incontro e di scambio. Sì, beh, non saprei cosa aggiungere oltre a questo, nel senso che è chiaro che quando si fa un film si spera sempre di poterlo portare in giro, e poi la modalità è quella che conta. Se ne parlava con voi gli altri giorni quando ci siamo incontrati, sarebbe bellissimo poter di nuovo fruire di visioni insieme, fare in modo che queste visioni siano poi oggetto di discussioni, riflessioni e scambi poi, in modo che, come diceva Michelangelo, che sicuramente ha un numero di proiezioni di molto superiore al nostro, poi questo è sicuramente uno scambio reciproco. Come potrebbe evolversi questo? Io non lo so, cioè se questa modalità ha la possibilità di evolversi in un modo ancora nuovo e magari scombinare un po' questa visione solitaria nelle piattaforme, è possibile, però io adesso prevederlo non saprei. Ce lo auguriamo in qualche modo, credo. Non so, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Allora, c'è un lo sgancio, scusa. C'è un episodio, diciamo, di un annetto e mezzo fa che mi ha fatto riflettere. Mentre col nostro collettivo stavamo lavorando al nostro primo lavoro, io e Pietro, che è lì, avevamo avuto uno scambio relativo proprio a questi ragionamenti sul modalità anche diverse di poter fruire di film e quant'altro, ed eravamo partiti dal fatto che io, polemico come al solito, stavo maledicendo un film che non avevo apprezzato per nulla, che era il film, non mi ricordo il titolo, quello comunque che racconta la triste fine di Stefano Cucchi. E però Pietro mi aveva fatto notare una cosa che sembra una stupidaggine, però quando era uscito quel film, che era uscito peraltro su una piattaforma, era successo che in diverse città d'Italia, in maniera totalmente spontanea, illegale, clandestina, c'erano state un sacco di proiezioni, anche credo sulla Darsena, sui navi. Quindi voglio dire, a volte poi, più che dal film in sé, magari anche lì era stata probabilmente la rabbia che si era diffusa per il fatto, diciamo, questo episodio di questo ragazzo massacrato dai carabinieri. Però era il contesto aveva fatto nascere un desiderio di vederlo insieme quel film, perché chiunque lo poteva guardare a casa sulla piattaforma. E quindi a volte ci sono delle cose che magari sono anche imprevedibili e hanno fatto scattare questa. Allora, questo elemento qua, a me, quando Pietro mi ha fatto notare questa cosa, io mi è rimasta impressa. Perché dico, allora, e a queste proiezioni, io ho visto, mi ricordo, ho visto le foto, io non ho partecipato, ma c'era una valanga di gente. Allora, forse, non lo so, a volte ci sono discussioni infinite, il cinema è morto, non è morto, la sala è morta, e i multisala, e i festival. Poi però ci sono elementi totalmente imprevedibili, saltano fuori dal nulla e ti fanno capire che in realtà a volte un desiderio di guardare, di stare insieme, di affrontare, è quello che un po' riallacciandomi anche al discorso che facevo prima. E allora dico, non so, io adesso mi è venuta così, è un input che io butto là, perché a noi quello che interessava stasera è creare un dialogo tra noi e anche chi è venuto ha partecipato, proprio perché, come dici tu, Michelangelo, il fatto che tu hai fatto tesoro di tutto quello che le persone ti hanno dato è parte essenziale del percorso che noi vogliamo cercare di portare avanti affinché tra quello che sta sullo schermo, poi tra chi lo fa e chi guarda, ci sia il più possibile una relazione non univoca, no? Una relazione di scambio. E quindi, non lo so, questo è un episodio che a me faceva venire in mente che anche un film che io peraltro non ho apprezzato ha fatto scaturire questo desiderio, questa pulsione. Niente, tutto qui. Se qualcuno vuole intervenire, il microfono è qui, non è portatile, deve venire al banco degli imputati. Quando sei in sala lo senti il lavoro nella testa degli altri, cioè nella fruizione collettiva senti le reazioni, il brusio, l'emozione di chi è di fianco che non corrisponde esattamente alla tua, e questo smuove delle cose, no? La proiezione collettiva è importante per tante ragioni, ma anche per questo senti che c'è qualcosa che sta accadendo nell'altro e questo ti fa sorgere delle domande. Una piccola cosa che posso aggiungere è che se il cinema sta finendo sulla piattaforma è anche un po' perché non... il modo in cui li progettiamo si sta indirizzando in quella maniera di fruirlo, cioè non il modo in cui concepisci un film per la sala non è lo stesso modo che utilizzi per uno schermo più piccolo, no? E allora una cosa che sta succedendo è che probabilmente cominciamo a pensare al film perché possa funzionare sulla piattaforma e sul piccolo schermo. E devo dirti che a me capita ancora di ragionare su un quadro molto grande, no? Su una proiezione in una sala grande. Cioè mi capita di lavorare su campi lunghi, su profondità di campo, perché il pubblico possa fare un certo lavoro col proprio sguardo all'interno. E questo non funziona così bene su uno schermo piccolo, ha bisogno di uno schermo grande. Però la sensazione è che questo succeda sempre meno. E questo è un punto, quindi c'è una responsabilità nel nostro progettare. L'altra cosa è che, per esempio, nel mondo delle arti visive, quindi non in quello cinematografico, alla Biennale, al museo, negli spazi espositivi si va invece, no? Non li fruisci da casa, li fruisci nello spazio. E tra l'altro questo tipo di pubblico, cioè quello delle arti visive, non coincide con quello del cinema. Cioè chi va, non so, alla Mostra del Cinema di Venezia non va alla Biennale invece delle arti visive. Sono due pubblici che non si parlano. E lì forse invece c'è una possibilità di incontro sulla quale forse avremmo la responsabilità di lavorare un po'. Volevo fare, vabbè, okay. Volevo fare un'osservazione, comunque prendo un po' tutte queste osservazioni vostre e sono d'accordo sul fatto che appunto sulla mia pelle era quello, no? Sì, cioè sulla mia pelle, appunto, anche per motivi politici, soprattutto per motivi politici, ha fatto spingere la gente anche a ricercare il confronto fisico. Soprattutto dopo un periodo di Covid c'è stata sempre più questa pulsione della gente a allontanarsi, cioè, sempre più dagli eventi fisici, no? E questa cosa che hai detto tu, oppure che ha detto anche Michelangelo, di ricercare un'esperienza che nel mondo delle arti visive è molto forte, che si va in uno spazio per avere un'esperienza, è secondo me quell'elemento in più che permetterebbe al cinema di uscire anche dalla crisi del Covid e spingerebbe la gente proprio ad amare di più l'esperienza collettiva piuttosto che l'esperienza individuale. E secondo me questo va fatto, appunto, come dice Michelangelo, facendo film più mirati all'esperienza condivisa. E quindi, no, secondo me, anche questo evento qua è un perfetto esempio di come rendere meno, diciamo, formale l'ambiente cinematografico, renderlo più aperto agli spazi pubblici e più libero, diciamo, secondo me è un'ottima mossa. Poi ovviamente si perde magari certe potenzialità tipo di fruizione, perché in sala ovviamente c'è molta più potenza percettiva a livello di audio e di grandezza dello schermo e di potenzialità di suono, però si guadagna in tutto altro, no? E poi volevo fare una domanda a Varshad Film di perché voi poi non so se il buco è in pellicola, no? No, ok. E perché voi, che avete una pratica così specificatamente analogica, scegliete oggi di fare questa cosa? E come questa cosa dialoga con il nostro tempo di oggi, che comunque era una cosa che avevate detto all'inizio di voler. Allora, beh, rispondo a quest'ultima domanda. Leggevo l'altro giorno delle note di Robert Bresson, Note sul cinematografo, e lui tra le sue parole chiave mette questa parola che è divinazione. E la divinazione nel senso che l'uso di quegli strumenti che lui usava, quindi la macchina da presa, magnetofono, era una possibilità, lui la indica come possibilità di non usare più la ragione. E io mi sono sentita molto vicino a questa parola, divinazione, perché ho sempre pensato, mi sentite così? Ho sempre pensato che questa distanza che la pellicola offre, e cioè la distanza tra la realtà e il film, e quindi la mediazione che la pellicola ha attraverso i suoi strumenti, attraverso il fatto che quello che tu giri non è subito visibile, ha bisogno di essere sviluppato, ha bisogno di essere lavorato, ha tutti dei tempi per cui e questi tempi impongono una distanza tra la tua visione e il risultato finale. Tutto questo offre una sorta di appunto negativo o di imprevisto o di imponderatezza che consente alla visione una certa libertà che per esempio il digitale non dà, perché il digitale chiaramente è un'opinione personale, però non è assoluta, però nella nostra visione è così, il digitale che ha questo impatto in tempo reale, tu puoi assolutamente controllare l'immagine e l'immagine non restituisce nulla di come dire, qualcosa che tu non puoi controllare in quel momento, in quello specifico momento. Ecco, questo è, come dire, la rimozione che il contemporaneo fa rispetto alla visione, cioè tutto è assolutamente percepibile, tutto è questa superficie che non permette una tridimensionalità, non permette un'ombra, e infatti se ci pensate il digitale non ha un negativo. Qualcuno diceva dov'è finito il negativo? Dove è finito il negativo della realtà, l'ombra, quello che noi non possiamo controllare, ecco, quindi anche un po' una posa delle armi dell'autore che di fronte, come diceva Bresson, che attraverso il mezzo può anche affidarsi a qualcosa che non è del tutto controllabile o ponderabile. Vorrei intanto ringraziare sia per questo dono proprio che ci è stato proiettato, sia il modo in cui è stato proiettato, che è veramente una cosa di valore e molto umana, io credo. E vorrei fare una domanda relativa al film, che però penso riguardi un po' tutto il modo di fare cinema, insomma, in modo indipendente e soprattutto in pellicola, perché oltre al fattore della distribuzione, secondo me fare cinema in modo indipendente ha un impatto molto diverso da un punto di vista del processo anche. E una idea, cioè una domanda che mi veniva in mente guardando il film, un dubbio che mi si poneva era come lei si fosse approcciato alle persone che poi sono comparse sullo schermo, nel senso che il protagonista era suo nonno, mi sembrava una dimensione abbastanza intima quella che andava a rappresentare, e mi chiedevo innanzitutto se fossero attori, attrici o personaggi del luogo in cui ha girato, e poi proprio il modo che ha avuto di approcciarsi, perché mi rendo conto che io credo che girare un film poi abbia un impatto sulla realtà che rappresentiamo nel momento in cui la stiamo rappresentando e anche dopo, quando viene percepita da chi la guarda. E questa realtà è una realtà molto interessante, peculiare, di cui perdiamo un po' la vista in città, no? Tanta umanità, tante piccole umanità. E quindi nulla, volevo chiederle appunto che approccio avesse avuto con queste persone e se fossero attori, attrici o persone del luogo. Non sono attori, erano, perché tante di quelle figure non ci sono, sono abitanti di un paesino della Calabria, che è il paese della mia famiglia. Il paese si chiama Caolonia ed è sulla costa ionica, a qualche chilometro nell'entroterra. E lì devo dirti che il rapporto con questo paese è un rapporto forte, intimo, che ho da quando ero bambino. Però anche successivamente, quando ho lavorato ad altri film, mi sono reso conto che l'operazione per arrivare a girare, no? Quello che si chiama lo sviluppo, insomma, diventava sempre molto lunga. È il problema di cui ha parlato Samira, no? Problema proprio produttivo. Se tu impieghi 5 anni per fare un film, è un problema per i produttori, insomma, no? Però mi sono accorto che finché non si costruisce un rapporto affettivo con il luogo, non riesce ad arrivare al compimento, no? E quello è un processo necessario. Ecco, probabilmente il buco, il film di cui parlava lui prima, forse era pronto già da qualche tempo nella sua concezione, ma c'era ancora bisogno, e ci è voluto del tempo in più, perché si costruisse un rapporto ancora più intimo con il luogo. Ecco. Quindi, diciamo, non sono degli attori, sono delle persone con le quali hai costruito un rapporto importante. Vorrei riuscire ad essere un po' più veloce in futuro, anche perché stiamo invecchiando, però al momento ci sono voluti sempre 5-6 anni per fare un film con non attori e con luoghi reali. Faccio una idea di domanda, Michelangelo. Nel tuo film i silenzi sono, o forse anche solo i suoni ambientali, sono una parte molto significativa del film. E il levare le parole mi sembra una presa di consapevolezza, oltre che a una scelta registica molto forte. E quindi mi piacerebbe che tu ci parlassi appunto di questa tua scelta, di come mai i protagonisti hai deciso di lasciarli parlare attraverso questo silenzio. Allora, guarda, non so se nel dono mi fosse chiaro il motivo, no? Per cui la parola veniva un po' a mancare, no? Nel tempo, lavorando, mi sono piano piano reso conto che il vero personaggio dei film che sono andato a realizzare era il territorio, no? Nel buco è la grotta, e quella voragine è il vero personaggio, quella montagna. nelle quattro volte, che era un film fatto un po' di anni prima, erano comunque delle dimensioni, non, delle figure non umane, no? E se avessi utilizzato la parola ha questa forza, è un magnete, no? Tutta la tua attenzione va lì. Quando in un film il dialogo è decifrabile, ti aspetti da la parola sia quella che ti dà la narrazione. E quindi ti sposta sulle figure umane. E avevo bisogno di invece che l'attenzione andasse sul territorio, sul paesaggio e non sul personaggio. O se vuoi si invertivano, diciamo, i ruoli, il personaggio e il paesaggio. E quindi la parola veniva meno. E questo però ovviamente con un lavoro che si raddoppia per i fonici, no? Perché la parola risolve anche molti, molti problemi nella realizzazione della colonna di un film. Però direi che è quella, diciamo, la questione. Non so se ci sono altre domande, se qualcuno... Beh. Guarda, dico una cosa, visto che c'è stata una domanda sui non attori. Mio nonno, che ovviamente non era un attore, anzi aveva fatto il sarto, poi il bidello in una scuola, poi il guardiano dell'acqua del paese, insomma, non era un attore. E si prestò per questo film con... fu bellissimo lavorare con lui, e poi alla prima a Locarno prese il treno e venne a Locarno e la proiezione fu al Fevi, no? La sala quella grande di 4.000 posti, e alla fine della proiezione, quando si doveva andare alla conferenza stampa, il pubblico lo riconobbe e lo circondarono e gli fecero un applauso suo, proprio per lui, e tanto che noi eravamo preoccupati che gli venisse uno scioppone, no? E lui, no, che era venuto da Caologna, da quale era uscito un paio di volte nella sua vita, e invece lui si comportò da attore navigato e fece degli inchini circolari e si emozionò molto, fu molto contento. E uscendo dalla sala, andando alla conferenza stampa, mi disse una cosa bellissima nell'orecchio. Me lo disse in dialetto calabrese, mi disse: "Andavimunda facciamo un atto, cioè dobbiamo farne un altro." Bello stavolta, bello questa volta. È un ricordo proprio indelebile. Volevo solo chiedere, ma... dato che i tempi di lavorazione sono sempre così lunghi, di sviluppo, sì. Ma di ripresa? Di sviluppo, di ripresa non tanto. Ah, ok, allora nessuna domanda. No, è il tempo che ti serve per arrivare a concepire il lavoro, che è molto lungo, e la costruzione del rapporto con il luogo e con le figure. Poi per questioni economiche in realtà il set, cioè lo shooting, è abbastanza limitato e vive di tutta quell'esperienza che hai catturato negli anni di lavoro precedente, no? Per dirti, non so, il buco sono 3 anni e mezzo nelle grotte del Calabrese e poi sono 3 mesi di riprese. Quindi c'è questa sproporzione, diciamo. No, e volevo chiedere allora, in tempi comunque dilatati di sviluppo, non per forza di ripresa, come tiene attiva la sua voglia e come resiste magari ai cali di interesse, o non so, delle mancanze magari di fiducia nel progetto? No, è che questo è un problema, perché se sei calabrese sei gnucco, capito? Infatti immaginavo che fosse anche tanto una cosa di educazione, di sì, luogo in cui è cresciuto. Sì, è una tara genetica, diciamo. Io sono curiosa di sapere invece quali sono i tempi di Tiziana e Samira, tipo con un film come La Zita, che per alcune cose si assomiglia, cioè va a indagare quel territorio, quelle Sì, infatti quello che diceva Fra Martino è vero, cioè devi veramente avere un legame col posto, cioè almeno quello che capita anche a noi, è proprio viene da lì. Io i film che abbiamo girato sono girati nel posto in cui sono nato e ci ho vissuto per un po', quindi le persone che conosci diventano i protagonisti, anche un po' inconsapevoli, appunto, diciamo le attrici del nostro, le attrici del nostro film, diciamo così, e non gliene fregava assolutamente nulla del film, né di venire a Locarno, né, proprio niente, cioè loro non gliene fregava niente. Tra l'altro giravamo con questa macchina un po' vecchia, per cui non avevano nessun, non c'era nessun fascino per loro entrare in un film, cioè era tutto brutto, un po', per cui non si vedeva niente, non potevano rivedersi, per cui se venivano bene se non, o no, quindi proprio niente, non gli fregava assolutamente nulla di, per cui hanno detto niente, grazie, ciao. Quindi diciamo che appunto anche questa cosa del mezzo, no? Che loro non avevano nessun riscontro, cioè per loro potrebbe essere anche una cosa negativa, ma non si rivedevano, quindi non facevano nulla per mettersi bene, spesso con la maglietta un po' così, poi tanto non potevano rivedersi, non avevano nessuna... Più che altro il mezzo non era riconoscibile, quindi non avevano una lettura diretta, per cui stranamente noi siamo riusciti a riprendere degli adolescenti in un modo completamente diverso da quello che gli adolescenti sono oggi sui social o come si mostrano. In realtà quello che ne viene fuori è molto diverso da quello che siamo abituati a vedere, da come i ragazzini di solito si mostrano, le ragazzine, attraverso i telefonini e le cose... quella macchina strana non era un loro problema, non era qualcosa con cui potessero entrare in qualche modo in relazione. No, infatti, cioè era una macchina molto grande, così, no? Molto grande no, però comunque era un po' strana, e quindi loro non avevano nessuna relazione, se non che dovevano star lì davanti un po' così, poi si distraevano perché comunque giocavano al cellulare, così. Quindi dopo un po' noi eravamo ingombrantissimi, ma totalmente trasparenti, cioè quell'oggetto per cui loro non provavano nulla. E quindi noi l'abbiamo fatti lì questi film, cioè, e ci andiamo quando siamo in ferie, perché noi andiamo al lavoro, non facciamo i registi di professione, diciamo, non ce lo possiamo permettere, ma nemmeno... Cioè, E quindi ci andiamo lì in vacanza, stiamo lì, frequentiamo le persone, andiamo a salutare la signora, ma ciao, come, sì, ma oggi veniamo a fare il film, sì, però oggi no, c'è mio figlio, devo preparargli da mangiare, ok, allora veniamo domani, cioè questa è un po' la relazione. Quindi tante volte a un certo punto ho detto no, basta, oggi no, non voglio più fare film con voi, vabbè, niente, basta, finito, abbiamo dovuto cambiare, per cui... E così, quindi stiamo là tutto il tempo a frequentare un po' gli amici, un po' qualcuno ci dice ma non hai visto quell'altra signora che fa questo, quest'altro, quindi è un po' lungo, un po' si sta lì, si sta sul posto, frequentiamo le stesse persone, poi spesso è fatto di andare a mangiare a casa della signora che ti... quindi tutto così, quindi è abbastanza lungo, ma nel posto in cui stai, lo possiamo fare perché... Non abbiamo problemi di, per esempio, location, cioè non esiste, location non è una parola che... Cioè, vai a casa della signora, quello che c'è, c'è. E se c'è il cane che magari abbaia, allora non puoi farlo, oppure così. E quindi, e poi non devi chiedere i permessi a nessuno, non, permessi, cioè di che? Piazzi la cosa, lo fai. Cioè, tutto questo è a noi sconosciuto. Lì, diciamo, in Basilicata, l'abbiamo girato in Basilicata, che è molto simile come paesaggio, e quindi così i tempi diventano sempre lunghi, ovviamente 2 o 3 anni, ovvio. Basta. Ma Aggiungo una cosa io, cioè chiedo una cosa io, ma non tanto per chiudere il cerchio, ma perché mi interessa. Tiziano l'ha raccontato bene, secondo me, cioè nel senso rispondendo a quello che mi chiedevo. Che cos'è quindi per voi il concetto di cinema indipendente? Tu giustamente hai detto, beh, poi non so se è una tua risposta... cioè, non dobbiamo chiedere permessi, non dobbiamo, cioè, ci muoviamo in maniera anche molto fluida su un territorio che bene o male conosciamo e che quindi diventa anche un po' una insomma diventa anche un po' una parte di voi, uno stare sul luogo che poi alla fine vi ingloba in un certo senso, quindi le ragazze vi guardano come se fosse effettivamente una presenza tutto sommato stabile, la signora mi invita a pranzo, a cena, insomma così, quindi l'ho vista io come un'idea di cinema che concepisce un'assenza, ovviamente limitata, di vincoli rispetto anche a dei sistemi imposti, insomma anche di produttivi da questo punto di vista. Mi chiedevo per Michelangelo se cioè la tua idea di cinema indipendente da quando hai fatto questo film ad oggi, diciamo, se è un'idea che è cambiata in questo senso o come è cambiata, ecco. Cioè il mio concetto di cinema indipendente. Sì, se, sì. No, ti posso dire che quando... cioè, ho sempre pensato che l'indipendenza fosse estetica, diciamo, e non economica. Questo penso che sia condiviso, nel senso che è un problema, cioè relativo a cosa pensi che sia il cinema, lo sguardo, il linguaggio, e se non è quello vigente, sei indipendente perché sei indipendente esteticamente, ecco, questa, ho sempre pensato che fosse che l'indipendenza fosse da cercare lì e, non so come dire prima con Antonio parlavamo di Strobe è sempre stato indipendente, nel senso che non è che è indipendente al primo film perché nessun produttore lo conosceva, perché tutti sono indipendenti all'inizio, no? E chi ti produce? Non ti conosce nessuno. E Straub ha continuato ad essere indipendente anche al 30° film, nel senso che era un linguaggio scomodo, non era all'interno dell'industria dell'intrattenimento. Cioè l'indipendenza è quella, non è data da altri fattori. E questo continua ad essere convinto che sia così. Poi per quanto riguarda me non lo so, quando ho cominciato mi sembrava di essere un filmmaker indipendente, nel tempo non lo so, non ne ho idea. Volevo farti una domanda tornando sul film. Su questo? Sì, su questo film. Se invece qual è stata la ricezione da parte degli abitanti di questo paese, se c'è stata, insomma, vabbè, ormai sono passati tanti anni, e se ci sono state anche proprio magari delle conflittualità o comunque anche dei pareri un po', insomma, divergenti rispetto alla rappresentazione che tu hai portato sullo schermo. A me è piaciuto molto, molto poetico, però in ogni caso è una rappresentazione che in qualche modo dà l'idea un po' di un paese cristallizzato, un paese, insomma, in qualche modo immobile. No, non piacque. Ma guarda, ad oggi l'unico lavoro che ho fatto che è piaciuto al luogo è un'installazione che ho fatto alcuni anni fa che si intitola Alberi, e che forse è piaciuta troppo, perché non so se riesco a dirlo in pochi secondi, è un'installazione che racconta un culto arboreo di un paese, Satriano di Lucania, e però io nel costruire questa installazione ho cambiato un po' il rito, l'ho modificato, cioè da rito individuale l'ho trasformato in un rito collettivo, E siccome ebbe la prima al MoMA, che fu un evento importante per il paese cambiò il rito, cioè lo trasformò in rito collettivo. E questo a me creò un po' un problema, nel senso che a lungo mi sono domandato se non avessi distrutto una tradizione, insomma. Però quello è l'unico lavoro che ha avuto un impatto così, insomma, ha avuto una risposta di entusiasmo da parte del paese. Il dono non piacque particolarmente, ma nessuno dei film che ho fatto. Quando avevo fatto un film, si intitolava Le Quattro Volte, e avevo lavorato a lungo con dei carbonai delle serre, che facevano un lavoro meraviglioso, dei personaggi straordinari. E quando uscì il film, l'Istituto Luce, che lo distribuiva, ebbe un'idea geniale di distribuzione, fece uscire tipo 15 copie in Calabria, quindi non andava nessuno a vederlo, andarono solo questi carbonai sostanzialmente, e andarono a vederlo a Vibo e mi chiamarono, usciti dalla sala mi chiamarono, avevano riempito la sala perché era una grande famiglia, la famiglia Timpano, quindi andarono in 80 e riempirono la sala e litigarono con la cassiera perché non volevano pagare, erano loro gli attori. E quando usciti mi telefonarono e mi dissero: Michelangelo, a noi non ci è piaciuto per niente, ma a nessuno, no? Per questo, per darvi un po' un quadro, nel senso che ci sono dei linguaggi che passano e che passavano soprattutto attraverso la televisione, che sono dei linguaggi che sono stati acquisiti, metabolizzati, e invece quest'altro linguaggio che aveva degli altri tempi e altre inquadrature ha sempre fatto fatica a incontrare la risposta con grande dispiacere, ti devo dire, con grande di questo pubblico. Ma forse si può dire anche un'altra cosa rispetto a questo che dici, nel senso che è vero che il lavoro è una relazione con il territorio, con l'ambiente, e il lavoro si sviluppa e si cerca attraverso questo ambiente, ma poi il risultato finale è qualcosa di molto personale, di molto intimo, e quindi per questo che poi può anche non piacere o può essere distante anche dallo stesso territorio da cui è partito, nel senso che è proprio un'osservazione che non può essere collettiva, ma è la tua o per esempio anche la nostra nel caso del lavoro sul territorio, non so. Sì, infatti è un problema quello della restituzione, cioè non è una cosa semplice quella di far rivedere a chi ha partecipato al film, perché vorrebbe rivedersi non così. Cioè, è terribile, infatti diciamo, belli colori, diciamo, infatti, la natura è bellissima. Bella. Oppure dicono, vabbè, quelli sono i posti che conosciamo. E giustamente, secondo me, è veramente un problema serio, per me. Cioè, io lo sento tantissimo. Quindi loro vorrebbero vedersi non così. Questo è una domanda che mi pongo, insomma. Guarda, su quanto sia intimo, non te lo so dire. Accade questa cosa, che ovviamente spesso ti fa dispiacere. Si recupera quando il film ottiene dei riconoscimenti. Ecco, succede quello, no? Quando il film ottiene dei premi o escono delle recensioni positive e loro sono molto attenti a questo, vanno a cercare, allora ci si riconcilia insieme, ecco, questo accade, ma perché accada, se la tua lettura è quella giusta, non lo so, può darsi. Grandissima consapevolezza di quello che stai facendo. a me lo stai rispetto a questo film, al percorso. Allora io non allora la mia vicenda, la mia formazione passa attraverso, io ho fatto anche la scuola di cinema di Milano, ma quando ho fatto la scuola di cinema di Milano mi ero convinto di non voler far cinema in quei 3 anni e mi ero molto più avvicinato invece al video e alla tradizione del video, che è completamente diverso, insomma, per intenderci, per la videoarte, insomma. Mi era sembrato più immersivo, più esperienziale, come dicevi tu prima, mi sembrava un linguaggio più vicino al mio modo di essere e al fatto, per esempio, che la mia formazione era avvenuta alla facoltà di architettura, quindi con un'idea di narrazione che non era quella cinematografica, ma è legata agli spazi e alla fruizione degli spazi. E quindi per me è stato a un certo punto quasi una sorpresa tornare o andare verso il cinema e da subito ho cercato di applicare al cinema quello che avevo imparato nelle altre discipline. Quindi penso che sia legato al percorso e alla formazione e al fatto che non ambissi esattamente a fare i filmmaker. Ma per conto mio, parlo per me, poi Samira ha fatto altre strade. Io non ho fatto nessuna scuola del cinema, non ho fatto nulla prima di questi due film, cioè facevo delle piccole cose così. E è venuta, no, mi viene in mente anche l'altra domanda, cioè non l'altra domanda, l'altra osservazione che c'era stata, quella dell'essere indipendenti. Quando sei indipendente tu puoi fare tutto quello che vuoi. In realtà no, cioè puoi fare solo una cosa, quella che puoi fare, cioè quella con il minimo degli strumenti che hai. Quindi cioè noi non faremo mai cioè almeno al momento non faremo mai un film in cui ci sono, che ne so, 8 navi e 4 cacciabombardieri, perché non si può. Invece vorresti. Certo, cioè, infatti sto lavorando ma per i cacciabombardieri un po', adesso sono impegnati. E cioè li hanno venduti probabilmente, ma non puoi, quindi tu non hai un grandissimo vincolo, cioè hai tutti i vincoli, per cui puoi fare solo una cosa, quella che fai. Quindi essere indipendenti è quello, cioè fare tutti i binari, cioè tutte le cose, i paletti che non puoi prendere, non li pigli e fai quello. Quindi è un po', diciamo, la cosa è dettata da questo. In più abbiamo aggiunto uno grandissimo, che è quello della pellicola, che per cui c'ha una sensibilità, una cosa puoi fare, non c'ha l'audio, quindi per cui se c'era qualche minimo di libertà che potevi prendere, l'abbiamo tolta, così non c'è più nessun problema, cioè una cosa possiamo fare, è quella. Rispetto al perché uno scopre di voler fare quel tipo di, ma penso che sia anche lì un fatto personale. Beh, io ho fatto prima il mio percorso, ho fatto pittura a Brera, poi ho fatto la scuola di civica qua di Milano e niente, poi nel tempo ho messo insieme le cose che mi piacciono, le cose che ho studiato, e quindi uno si fa un piccolo tesoro, un piccolo bagaglio e poi cerca di rimettere in ordine tutti i pezzetti. E poi scopre di essere vicino a certe cose piuttosto che altre, ma diciamo un po' una scoperta che uno deve fare sul campo, anche mentre fai le cose, le devi scegliere. Credo che sia così, funzioni così. Allora, io ho ancora un'ultima cosa da chiederti, te la lancio come provocazione a te, Michelangelo. Perché prima abbiamo parlato appunto di come la gente ama uscir bene, guardarsi anche, e faccio questo discorso ricordandomi quando appunto tu sei stato mio docente alla scuola di cinema e ci avevi fatto un bellissimo discorso sul narcisismo, sul come la gente vuole sempre guardarsi all'interno dei film. Quindi ti lancio questa sorta di provocazione, ma per divertimento, diciamo. Come mai in questi ultimi anni in cui la gente è così narcisista ed egocentrica, tu comunque fai questo genere di film che è più legato al territorio e meno alle persone? Io non mi ricordo di aver fatto una lezione sul narcisismo. Non. No, guarda, una cosa che a me e a Giovanna, abbiamo lavorato assieme al Buco, questo film, la cosa che ci ha colpiti della vicenda che abbiamo scoperto, che è la storia di un'esplorazione, di una cavità, la storia dell'esplorazione del Bifurto, che è una cavità profondissima nel cuore al confine tra Calabria e Basilicata, queste regioni cugine, e che questi ragazzi che nel 1961 avevano fatto questa esplorazione, che è una sorta di K2 alla rovescia, perché era la seconda grotta più profonda al mondo, no? E tutti sappiamo che il K2 è una esplorazione, un'impresa leggendaria. Invece loro fanno questa impresa, arrivano a quota meno 700 metri nelle viscere della Terra, e tornati a casa, tornati a Torino, non dicono niente a nessuno, non la raccontano, tant'è che nessuno conosce questa vicenda, no? Ecco, questo gusto dell'esperienza frontale, no? E non del racconto dell'esperienza che hai fatto, no? Quest'estate mio figlio mi faceva notare, siamo andati a un concerto a Roccella Ionica, c'era Mahmoud che cantava, e Lorenzo era colpito, mio figlio, dal fatto che nessuno guardasse il concerto, ma tutti lo stessero filmando, no? Perché era importante il racconto del concerto, non il concerto, no? E invece quei ragazzi del 61 fanno un'impresa e se la tengono. Questa cosa ci è sembrata, a me e a Giovanna, è sembrata molto importante, questo culto dell'esperienza. E abbiamo cercato poi in qualche modo di fare un film che non fosse un racconto, ma che fosse a sua volta un'esperienza in qualche modo, no? Buco credo che sia più nel territorio, appunto, dell'esperienza che della narrazione. Quindi perché ci ha colpito molto che quei ragazzi, cioè mi è sembrato che quella generazione insegnasse qualcosa in questo senso. Direi che chiudiamo, se non ci sono più domande. Ok. Sì. Vabbè, questa sera sono stati anche citati o comunque chiamati in causa molti altri film, sia di Michelangelo sia di Tiziano e Samira. E ovviamente abbiamo chiesto gentilmente a voi la vostra mail, se qualcuno ha voglia ancora di scriverla, lasciamo a disposizione i fogli, perché ci teniamo insomma ad aggiornarvi rispetto alle prossime cose, agli prossimi eventi che porteremo avanti e in cui avremo la possibilità, speriamo, di mostrarvi altri lavori sia di Michelangelo che di Samira e Tiziano e ovviamente di tanti altri autori che stimiamo, che in qualche modo vogliamo mostrarvi. E anche queste mail che abbiamo raccolto da parte vostra, insomma, vorrebbero anche essere un po' un input per permetterci di scrivervi e insomma di magari chiedervi se avete voglia di entrare all'interno del gruppo Maelstrom, di collaborare, se avete idee per un progetto, se volete fare. È un collettivo aperto, quindi, come vi abbiamo detto, per noi è molto più importante il processo della realizzazione di un film più che propriamente il risultato finale. Proprio adesso stiamo finalizzando un film che proprio parla un po' che è un meta cinematografico, nel senso che parla della realizzazione di un altro film. Quindi, insomma, è un gruppo aperto e niente, ci vediamo presto. Un saluto. Adesso non so se volete. come ultimissima cosa, oltre a poterci scriverci via mail, ci trovate anche su Instagram con il nome di Gruppo Maelstrom, quindi abbiamo un po' taggato la serata, gli ospiti, così, e se volete seguirci ci piacerebbe, perché stiamo cercando di attivarci anche nel lato più social, diciamo così. È difficile, eh? È difficile. Non siamo ancora influencer, purtroppo, quindi. Grazie a tutti, buona serata.